Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo argomento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, casi che si stanno moltiplicando di furti online sulle carte PostePay. Ben trovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. Allora, casi che all'inizio di questo 2014 voi registrate sempre più numerosi. Cosa succede? Sì, come hai detto Mirko, innanzitutto è il problema di persone che hanno si sono rivolte all'Adico per denunciare addebiti fraudolenti sulle carte prepagate. È un problema che avevamo affrontato anche l'anno scorso, ma quest'anno è subito iniziato nel 2014 con un fenomeno quanto curioso, che diversi utenti si sono rivolti appunto all'associazione, i quali lamentano che in occasione di giocate nel sito delle scommesse www.snai.it si sono trovati nei giorni successivi tutta una serie di addebiti fraudolenti presso la propria carta prepagata, al quale non fanno fatica a denunciare alle poste l'addebito e ancor più a ottenere il giusto risarcimento. Ma intanto meno male che se ne sono accorti subito, perché sono stati accorti, evidentemente la usano abbastanza spesso. Di che importi parliamo? Allora, normalmente amico, quando si trattano queste vicende bisogna dire che gli importi tendono sempre un po' a scoraggiare il consumatore ad agire anche in giudizio nei confronti delle poste, perché si trattano di importi che vanno dalle decine alle centinaia di euro, anche se abbiamo avuto un caso addirittura di 2.500 euro. Però sostanzialmente noi contestiamo anche appunto la vicenda in generale, perché da un lato, se assistiamo a un addebito fraudolento per colpa, a nostro avviso, di un sistema che riteniamo poco sicuro per salvaguardare la privacy dell'utente, dall'altra ci troviamo sempre a dover denunciare il comportamento delle poste, che normalmente quando deve procedere al risarcimento, come stabilito nei contratti, verso l'utente, verso il tuo cliente che ha un contratto con te, tendono sempre a fare troppo spesso le orecchie da mercante. Tecnicamente cos'è successo? Cioè, c'è qualcuno che si è intrufolato, che ha rubato i dati, i codici di accesso, oppure in che modo avvengono queste sottrazioni di denaro? Normalmente le persone accedono a questo sito e tramite la propria carta prepagata giocano delle somme su quello che è un sistema ormai che lavora sotto controllo dello Stato, che permette a tutti di poter scommettere su qualsiasi cosa. Successivamente, nei giorni successivi, hanno visto avviarsi tutta una serie di addebiti di cui loro sono in grado e hanno chiaramente confermato di non aver assolutamente fatto nulla successivamente all'ultimo accesso al sito, di cui non sanno giustificare per quale ragione sono sparite addirittura centinaia di euro sulla propria carta prepagata. E conseguentemente a questo si è attivata tutta quella procedura di cui Adico si è messa a disposizione per dare assistenza al consumatore che è rimasto coinvolto nella vicenda. Dicevi, a volte per poche decine o anche 100-200 euro non vale nemmeno la pena iniziare il procedimento, però se i casi sono così tanti come dite, alla fine chi li ha sottratti evidentemente ci ha guadagnato. Certo, innanzitutto noi siamo sempre dell'idea che non bisogna mai lasciare perdere, ma andare avanti e cercare di portare la risoluzione della vicenda a qualunque costo, perché innanzitutto le persone devono sapere che al di là di quello che è l'importo, l'Adico dà l'assistenza gratuita a tutte le persone, avendo predisposto tutta una serie di modulistiche al quale ogni consumatore può tranquillamente poter compilare ed agire autonomamente nei confronti innanzitutto di chi? Innanzitutto delle poste, tramite un modulo si manda una diffida e poi si invita il consumatore, una volta fatta la diffida, anche a fare una denuncia alla polizia postale. Poi conseguentemente, anche a fronte di quella che può essere una risposta delle poste, che immancabilmente arriva sempre ad essere negativa, abbiamo predisposto il modulo successivo, che è quello di citare in giudizio le poste italiane per ottenere il giusto risarcimento. E dobbiamo ammettere che in tutte queste vicende in cui il consumatore ha voluto andare avanti fino in fondo, per cui citare poste in giudizio, Poste ha sempre risposto qualche giorno prima dell'udienza restituendo tutte le cifre di cui il consumatore lamentava un addebito fraudolento. Questo cosa significa in soldoni? Che a fronte di qualsiasi cifra possiamo parlare, c'è la possibilità di poter far valere le proprie ragioni sostanzialmente a costo quasi zero, se non pagando un piccolo contributo unificato, purtroppo in cancelleria, che è un costo che non dipende da Adico ma dal sistema che ha deciso di passare anche questi procedimenti. Ma certamente è un invito a quello di non lasciare mai perdere, perché è giusto che il consumatore gli vengano restituiti i propri soldi. Un altro aspetto specifico su questa vicenda, generalmente su questo citato snai.it o su altri siti, si accede evidentemente con le proprie credenziali, quindi bisogna dimostrare di essere maggiorenni inserendo i nostri dati anagrafici, ma la scheda, la tessera che si può usare per giocare, PostePay o altre, non necessariamente deve essere la tua, cioè può essere di chiunque, sì. È così? È così, Mirko, infatti dove noi denunciamo la criticità, ed è anche il senso della nostra attività come Adico, è proprio quella, guarda caso, che SNAI, che è una società statale che permette a tutti di poter fare delle scommesse sulle giocate online, è quella che sostanzialmente dà meno sicurezza, perché permette a chiunque di poter fare di procedere a fare delle scommesse pagando delle cifre senza che la carta prepagata sostanzialmente abbia un'intestazione corrispondente con il profilo dell'utente del sito. Quindi cosa vuol dire? Che io sostanzialmente con la tua carta potrei tranquillamente scommettere, cosa che normalmente non dovrebbe essere permesso, perché al minimo si potrebbe pensare che almeno le credenziali della persona che è iscritta corrispondano con le credenziali della carta prepagata, e qua purtroppo non è così. Dunque questo 2014 inizia con questa procedura e si arriverà verosimilmente davanti al giudice di pace. Chiunque dovesse verificare ammanchi di questo tipo non esiti a rivolgersi all'Adico in a Mestre con tutti i riferimenti del caso e i consigli che si possono ricevere. Grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini. Tra un paio di giorni altro argomento da approfondire. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.